Voci spettrali sussurrano in coro parole che io non capisco. Sono loro che scrivono il disco. Sento solo che mi dicono che io sono il nuovo Gesù Cristo. E parlerò a tutta la gente di tutte le cose tremende che ho visto. Angeli a terra lungo la mia strada, schiere di lapidi in marmo Carrara. Ma non sai quanto è pesante finché non la porti tu sulle tue spalle una bara. Sangue del mio sangue, ora capisci perché questa merda fra te è così cruda. La mia è una storia di vita vissuta. Stai zitta troia, devi stare muta. Io so come ci si sente quando non hai più nessuno al tuo fianco. Quando cerchi una qualsiasi cosa qua aggrapparti, ma ti crolla addosso tutto quanto. Nelle mie vene, veleno nero. Quando non c'era più niente cui credere, sentivo queste voci tartassare la mia mente. Continuavano a ripetere, non devi chiedere. Fumo sempre quale 4:20. Non hai flow né stile né argomenti. La tua opinione no, non mi tocca. Me lo prendi in bocca finché non ti spacco i denti. Quando dormo sento frasi al contrario alternate da sibili. A volte mi dicono scrivi ed uccidili. A volte mi urlano uccidili, uccidili. Sono come un re, perché nessuno lo fa come me. E torneranno poi per dirmi che non sono solo perché loro sono me. Dicono che andrò all'inferno come un re, perché nessuno lo fa come me. E torneranno poi per dirmi che non sono solo perché loro sono me. Sento sempre questa voce, assume tante forme. Vedo ombre, seguo orme. Sto pensando, sto passando al vaglio paranoie. Tutto fatto al bagno delle donne. Faccio un'altra notte insonne. Notte horror, horror figo tipo non aprite quella porta. Non svegliate il can che dorme. Voce roca, mi sussurra falle grosse. Mi urla prendi un canne mosse. Dicono che andrò all'inferno come un re. Come se mi bastasse no vi porto giù con me. Come se mi salvasse sono morto già da 300 anni. La morte mi fa non vivo senza te. Cerco drammi. A volte bisogna che scriva di cattivo gusto. Ho tanti flow quante personalità nel mio teschio. Fin quando la voce mi parla mi sento nel giusto. Sanno che non busto, sanno che non esco. Dicono che andrò all'inferno come un re, perché nessuno lo fa come me. E torneranno poi per dirmi che non sono solo perché loro sono me. Dicono che andrò all'inferno come un re, perché nessuno lo fa come me. E torneranno poi per dirmi che non sono solo perché loro sono me.